got to give a little. Indovina chi viene a cena? Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Buona serata da Valentina Furlanetto, benvenuti a Indovina chi viene a cena. Questa sera parliamo di cuochi a colori, che è un'iniziativa che nasce dall'idea di mettere assieme diverse nazionalità per conoscere e conoscersi. Insomma, è una filosofia che propone la cucina etnica come esperienza di cucina, ma anche di incontro. Alcune donne in realtà l'hanno inventata, infatti mi verrebbe da dire cuoche a colori. Donatella Forconi, buonasera. Buonasera. Amministratore e socia fondatrice con Maric Lapennesi della One World, di cui Cuochi a Colori è il primo progetto, no? E buonasera Carmen Rodriguez. Buonasera Valentina, buonasera. Che è una cuoca di questo progetto. Donatella, innanzitutto, come vi è venuta in mente questa idea e in cosa consiste in pratica? Allora, l'idea è nata dentro l'esperienza di un'associazione di volontariato che si chiama Arcobaleno, un'associazione che presta assistenza e aiuto agli stranieri che approdano a Milano. E, è nata dall'idea di cercare di trovare una soluzione lavorativa, ma che fosse dignitosa, cioè che potesse in qualche modo permettere a questi stranieri di esprimere le loro culture di partenza. Quindi abbiamo fatto un po' di prove all'interno dell'associazione e poi alla fine abbiamo deciso di fondare un'impresa. Quindi siamo una startup che è stata costituita poco più di un anno fa. È vero il discorso che diciamo prevalentemente al femminile, per cui le nostre sono prevalentemente cuoche, e nasce proprio da quell'idea che è un po' il payoff di Cuochi a Colori, che è saperi e sapori dal mondo. Cioè, il primo servizio che abbiamo attivato è quello della cucina a domicilio, però le nostre cuoche arrivano nelle case non soltanto a cucinare, a portare il cibo del loro paese, ma anche a portare i racconti che sono legati a quel cibo, perché appunto noi crediamo che il cibo sia uno strumento di trasmissione della cultura, no? di provenienza, diciamo. E lo crediamo anche noi, infatti ogni settimana ci occupiamo di identità e cucina, pensando che la cucina sia insomma una parte importante dell'identità. Carmen, so che ci ha portato un piatto a proposito di cucina, no? Sì, c'è un piatto che si chiama causa. Mm-hmm. Causa, che è lo stesso significato qua a Milano, in Italia, in italiano. Allora, nel tempo del 1800 più o meno, 1821, quando noi, quando i peruviani volevano emanciparsi degli spagnoli, abbiamo fatto la guerra, e per questa guerra avevamo bisogno dell'armi. Allora, le donne, come al solito le donne, si sono riunite e creato questo piatto semplicissimo, base di patata, perché noi siamo il re delle patate, eh? Abbiamo 300 tipi di patate, e hanno fatto questo piatto a base semplicemente di limone, un peperoncino giallo della mia terra, e così con limone lo hanno fatto una massa e lo hanno presentato al popolo, chiedendo per la causa, perché questo piatto si chiama causa, e dicevano per la causa della rivoluzione, perché con quel soldino, perché andavano a venderli questi piatti di causa, con questo soldino compravano delle armi. Una cosa meravigliosa, le donne in quel tempo, immagina, 1821, per liberarsi degli spagnoli, per essere liberi, e così è nato questo piatto, facilissimo, che piacciono tanto alle persone come ai bambini. Adulti e bambini godono, perché è un piatto facilissimo e buono. Sempre che te pregunto che quando, come e donde, tu sempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Che cosa, oltre alle patate, in cosa consiste il piatto? Quali sono gli ingredienti? Bene, gli ingredienti sono pochi, perché giustamente era un piatto che non doveva costare tanto. Allora, si mette la patata schiacciata come per purea, poi mettiamo il succo di limone, il peperoncino frullato, giallo peruviano, un po' di sale e il pepe. Questo si fa una massa. Mm-hmm. E tu lo puoi presentare qualsiasi forma, rotonda, eppure più avanti della storia hanno ricreato questo piatto e l'hanno fatto ripieno. Allora il ripieno tu lo puoi scegliere a modo tuo, se tu sei vegana puoi usare le verdure, se tu ti piace il pollo, con petto di pollo, sempre insieme alla maionese, possiamo farlo anche col tonno. E poi lo puoi decorare di accordo alla tua creatività. Insomma, un piatto proprio eclettico e che ha una storia importante, come sì, ci hai raccontato, Carmen, no? Certo. Perché è questo fondamentalmente quello che voi fate, no, Donatella? Carmen ce l'ha spiegato bene. Sì, cucinare, ma soprattutto attraverso la cucina raccontare la storia del proprio paese. Esatto, e anche, certo, come diceva Carmen, anche la passionalità del popolo che porta quel piatto. Sì, sì, sì. Anche le cuoche delle altre nazionalità, per esempio spesso i piatti nazionali hanno simbologie, per esempio legate al sacro, piuttosto che a dei riti conviviali che prevedono un certo tipo di lavorazione del cibo, per cui anche il porgerlo a tavola, il metterlo a tavola, il consumarlo insieme diventa una sorta di rito appunto conviviale, in cui c'è uno scambio veramente che diventa veramente profondo. No? Quante persone, Donatella, partecipano? Quante cuoche di che nazionalità partecipano a Cuochi a Colori? Guarda, oltre le cuoche ci sono gli aiuti cuochi, poi c'è un bello staff, tutto al femminile ovviamente, in cui partecipano anche giovani italiane, neolaureate, appassionatissime di questo progetto, ma in tutto saremo una quindicina e le cuoche sono una decina più gli aiuti cuochi, poi c'è 5 persone di staff. E le nazionalità che copriamo sono il Marocco, l'Indonesia, il Perù, l'Egitto, il Brasile, lo Sri Lanka, l'Eritrea e la Thailandia, ma stiamo anche continuando a far prove per altre nazionalità. Chissas, chissas, chissas. Ci fai un esempio di altri piatti che raccontano come il nostro causa che ci ha portato Carmen una storia oppure un rito o una caratteristica della cultura alla quale sono associate? Sì, per esempio in Indonesia il nasi tumpeng è un cono di riso giallo aromatizzato con la curcuma che viene sostanzialmente proprio plasmato a forma di cono, quindi è proprio un oggetto plastico quasi futurista e questo cono è attorniato da 7 tipi di cibo diversi perché in realtà il numero 7 è un numero che ha una simbologia sacra, il cono giallo rappresenta il monte sacro, attorno al quale vengono rappresentati tutti gli elementi del creato, quindi c'è la carne, quindi c'è il pesce, quindi ci sono i vegetali, no? E quindi è una sorta di presenza. Tutto questo è presentato su un letto di foglie di banane decorative, molto, diciamo, scenografico, ma anche molto buono, il fatto è questo. Y así pasan los días, y yo desesperado. Tu contestando, quizás, quizás, quizás. quizás. Grazie Donatella, ci fermiamo brevemente e torniamo con voi tra pochissimo per parlare ancora una volta di cultura e identità con questo progetto Cuochi a Colori. Sono Giovanni Minoli, vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10 e mezza con le bolle di Mario Sechi, i salamini di Pietrangelo Buttafuoco, le inchieste di Giovanna Corsetti, il Vale la Pena di Alessandra Fiori e la comicità della Sora Cesira. E naturalmente ogni giorno i gialli della storia su Radio 24. Ascoltaci anche in digital radio. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Siempre che te pregunto che quando, come e dove, tu siempre me respondes, quizás, quizás, quizás, y así pasan los días, y yo desesperando. Bentornati a Indovina chi viene a cena. Questa sera parliamo con alcune signore, per lo più, che si sono inventate un'attività che mette assieme la cucina e la professionalità di alcune di loro. Si tratta del progetto Cuochi a Colori. Donatella, ci stavi raccontando alcune caratteristiche dei piatti che le vostre cuoche, che vengono dall'Egitto, Indonesia, Marocco e, come ci dicevi, molti altri paesi, portano nelle case anche, perché fate anche della cucina a domicilio, no? Sì, è nata come cucina a domicilio, anche se poi adesso ci chiedono anche tanti altri servizi, tipo appunto catering, oppure eventi culturali veri e propri accompagnati dal cibo, feste di vario genere, aperitivi, insomma adesso copriamo un po' tutta la gamma. Ma la storia è nata proprio con una cena a casa mia, tra l'altro, con due amici di New York, e avevo un'amica marocchina che sapevo aveva bisogno di lavorare. Abbiamo allestito una cena marocchina, ma la cosa che lì ha fatto scattare un po' l'idea è stata che mentre lei cucinava e con dei gesti veramente quasi sembrava una danza, apriva questo couscous, perché c'è tutta una procedura molto lunga per aprire il couscous, per renderlo diciamo più saporito. Lei raccontava della sua famiglia, della sua casa, del suo paese, in una lingua un po' improbabile tra l'italiano e il francese, che poi noi traducevamo in americano, e quindi c'è stata una sorta di momento magico babelico, proprio in cui però in realtà quello che è passato, questo scambio di culture tra loro tutte diverse e però unite da questo unico grande piatto che era questo couscous, tra l'altro estremamente anche qui colorato, decorativo eccetera, qui nascono i colori, no? dei cuochi a colori, che ha conquistato tutti. Voi avete attivato anche una raccolta fondi per ingrandirvi, no? Per avere anche una cucina, mi pare di capire, a disposizione. Sì, abbiamo fatto un crowdfunding che si è concluso già alla fine del 2015. Abbiamo raccolto una parte, purtroppo, infatti stiamo meditando di fare una seconda tranche, una parte che ci è servita per, stiamo proprio acquistando in questi giorni, per poter avere un laboratorio tutto nostro e quindi con le nostre attrezzature, perché fino adesso abbiamo fatto un po' a domicilio e un po' su cucine prese a noleggio, quindi in realtà questo sarebbe una grande svolta per noi che siamo proprio una startup. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Carmen, ci racconti qualcosa di te? Quando sei arrivata in Italia? Sono arrivata 15 anni fa. Io sono dal Perù, sono partita dal Perù con mia figlia di 9 anni in quel momento e siamo arrivate a Johannesburgo. Quindi in Sudafrica. Perché non avevo il visto, come facciamo praticamente tutti che migriamo, no? Tutti i migranti. Allora, dopo 19 giorni, con l'angoscia del mio marito, perché mio marito in Italia è arrivato 25 anni fa, guarda, e io ho sopportato 10 anni lontano di lui, aspettando che arrivasse il momento di raggiungere la famiglia e stare insieme tutti. Ma poi io ho preso questa decisione, ho detto no, a questo punto dovrò andare, e avevo anche ancora ho altre due figlie che erano più grandi, che dopo 2 anni si sono raggiunte qua, che adesso una è sposata con un italiano e la altra anche ha preso la diploma, anche se sono arrivate grandi. La piccola ci darà la soddisfazione di laurearsi quest'anno. La mia motivazione per stare qui è stata sempre l'integrazione. Io volevo integrarmi alla società, farmi conoscere, perché se non era così non poteva portare avanti le mie figlie, perché abbiamo deciso dal primo momento vivere per sempre qui. E è stato così, meno male, dopo 15 anni sono orgogliosa di dirlo, no? Mi sono sistemata dentro della società, perché è quello, no? Non è che arrivo in una città e sono loro, i cittadini, che devono adattarsi a me, invece no, io dovevo entrare. Ogni volta che io partecipo a un evento o vado a case private e vedo a tutti contenti di quello che io cucino, faccio un conto nella mia testa, dico adesso 40-50 persone in più conoscono un pochettino del mio paese, di Perù, e possono anche amarlo, e possono andare là e dire questo piatto l'ho mangiato in Italia, fatto da una peruviana. È quello che mi dà una soddisfazione, è quello che veramente non lo so come ti posso spiegare. Quando una persona è felice, lo sai, io sento di tutto quando vedo queste facce delle persone, che dico che buono Carmen, o dicono la peruviana, sì il ceviche, sai che abbiamo un piatto emblema, sì, no? Come no, ma certo, ma tra l'altro in questi ultimi anni la cucina peruviana va di gran moda, no? Sì, noi abbiamo il 14° posto nel mondo come cibo, come gastronomia. In Italia sta diventando una cucina molto di moda, una riscossa davvero della cucina sudamericana e soprattutto peruviana. Quindi è un grande orgoglio anche per te di portare i tuoi piatti, i piatti del tuo paese in giro. Qual è stata, Carmen, la situazione in questi 15 anni? Perché insomma sono molti anni ormai in cui tu vivi in Italia. Qual è stato il momento più difficile per te? Il momento più difficile è stato la lontananza delle mie due figlie più grandi, perché ormai erano maggiorenne, avevano già 18-20 anni, e io non pensavo, quando sono arrivata qua ho detto praticamente ho disfatto la mia famiglia. È stato un momento difficilissimo, ma quando sono passate le settimane l'unico che sentivo dall'altra parte del telefono quando parlava con loro era: mamma, noi vogliamo stare con te, con papà, con la mia sorellina. Per me è stato, ho cominciato a lottare, a lavorare, mio marito, ci privavamo di tutto per portare il soldi in Perù, perché dovevamo far arrivare le mie figlie. Che questo lavoro hai fatto per mantenerti in quegli anni? Cosa ho fatto? Subito, sai che l'espagnolo è molto simile, perché radici latine, all'italiano, allora lo primo che mi è stato facile capirlo, parlarlo è stato un po' difficile, e subito ho trovato lavoro come babysitter. E io ho imparato con questa bimba che l'ha accompagnato durante 12 anni, ho imparato con lei l'italiano. E quella è stata l'entrata in Italia, e ho conservato questo lavoro durante 12 anni. E poi ce l'aveva anche altri piccoli di pulizia, arrivava a fine settimana, mi chiamavano per pulire gli uffici, io e mio marito e io accettavamo tutti i lavori che si presentavano. Por lo que más tú quieras. y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás, quizás, quizás. Io torno ogni 4-5 anni a fare una visita, c'è una tia abbastanza anziana che mi dice delle ricette, la chiamo anche per telefono, ma no, non tornerei mai. Ormai la tua famiglia e la tua vita sì, è qui. Ho un genero italiano, l'altra è fidanzata, fra poco si sposerà, non vedo andare lì. Donatella, come Carmen ci saranno tante altre storie, no? 10 cuoche, 10 storie diverse, tutte storie di fatica, immagino, e di riscatto. Sì, sì, direi fatica e passione anche, no? Perché in realtà poi questa cosa della cucina che noi intendiamo fare ad un livello qualitativo ovviamente adeguato ad un pubblico come quello italiano che su questo tema, come dire, può essere considerato in assoluto tra i migliori al mondo, quindi sappiamo di avere, come dire, davanti una clientela esigente, questo ci obbliga ad avere e a richiedere anche a loro un livello qualitativo alto, quindi questa è una bella sfida, è molto interessante perché si stanno riqualificando, studiano, qualcuna di loro ha già delle competenze di base, e quindi accanto come dire, alle sofferenze e alle difficoltà di partenza, di provenienza, alle storie che ognuna ha nel proprio bagaglio, c'è una grandissima passione, devo dire che si lavora veramente tantissimo bene, cercando sempre di migliorarsi, e questa cosa è molto interessante, molto ricca. Donatella, voi operate su Milano o anche su altre città? Principalmente su Milano e Interland, devo dire che ci stanno arrivando delle richieste anche da fuori, non è impossibile organizzarsi con delle trasferte, siamo tutte abbastanza nomadi e quindi è possibile anche muoversi nei dintorni. Quindi si può andare sul sito di Cuochi a Colori e mettersi in contatto con voi? Assolutamente sì, c'è già sul sito qualcosa di visibile di quello che facciamo, ma è soltanto una piccolissima parte, perché in realtà abbiamo una gamma vastissima, perché ci siamo trovati sempre a cercare di personalizzare il servizio, e quindi i piatti e le cucine che mettiamo a disposizione, le combinazioni dei menù che possono essere monoetnici ma anche plurietnici, nel senso che a qualcuno può avere una doppia passione o può richiedere una combinazione su un tema, oppure una declinazione di un unico oggetto, per esempio, non so, i dolci, allora facciamo i dolci nel mondo e allora facciamo 10 tipi di dolci di 10 nazioni in 10 punti diversi del mondo, no? Per dire, quindi come dire, l'offerta è molto vasta, è qualcosina visibile lì, ma basta chiamarci che poi ci mettiamo d'accordo sulla base anche delle esigenze, delle richieste. Io immagino, tra l'altro, che siate, visto che il vostro nome vi chiamate Cuochi a Colori, siete aperti anche a eventuali richieste di partecipazione da parte di cuochi uomini. Assolutamente sì, qualcuno lo abbiamo già testato, qualcuno diciamo vorrebbe entrare a far parte della squadra e quindi lo testeremo a breve, e poi ci sono tanti uomini che ci aiutano nei vari servizi, dal trasporto al servizio di sala, insomma ci sono tante persone intorno a noi ovviamente. Causa ripiena. La causa è un piatto tipico della gastronomia peruviana. La sua origine risale all'epoca precolombiana. Ricetta per 4 persone. Ingredienti: 1 kg di patate medie, olio di semi a piacere, succo di 2 o 3 limoni, 2 peperoncini freschi, 2 spicchi d'aglio, sale, pepe, lattuga, 2 uova sode, olive nere. Preparazione: lessate le patate in acqua salata. Quando sono pronte, sbucciatele e schiacciate le patate fino a ottenere una purea senza grumi. Lasciatela poi raffreddare. Nel frullatore mettete il peperoncino pulito e senza semi, l'aglio e l'olio di semi, quel che basta per frullare. Una volta pronto, versatelo sopra la purea di patate, aggiungete il sale, il succo di limone, l'olio di semi e amalgamate. Ci sono tanti modi di fare la causa: monoporzione, rotonde, quadrate, a forma di torta, eccetera. Solitamente vanno accompagnate da un'insalata di cipolle, salsa criolla. Si consiglia di refrigerare per 15 minuti prima di servire. Per il ripieno di tonno prendete due lattine di tonno da 80 grammi, mescolatelo con la maionese a piacere. Ripieno di gamberi, camarones. Usate solo la coda del gambero sgusciato e cotto al vapore, circa 500 grammi. Tagliate due pomodori freschi a dadini, del sedano, un avocado se vi piace. Insaporite il tutto con un po' di aceto, sale e maionese. Ripieno di pollo. Lessate un petto di pollo in acqua salata. Una volta cotto, sfilacciatelo, aggiungete del sedano tagliato finemente, unite il tutto con un po' di sale a piacere e la maionese. Grazie Donatella Forconi e Carmen Rodriguez di Cuochi a Colori, buona serata. Grazie a te Valentina, grazie mille. Grazie Valentina, grazie. Grazie anche in regia per l'aiuto tecnico in questa puntata, Filippo Aureggi, a tutti voi per l'ascolto. Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto. You've got to give a little. That's the glory of love.